24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Per esempio, l'emendamento che propone di sostituire la TRISE, la nuova tassa sulla casa, con una tassa ancora più nuova, il TUC, non è male, eh? Via la TRISE, arriva il TUC. L'hanno sostituita con un cracker. Vabbè, vabbè, Maurizio Crozza, questa l'abbiamo detta anche noi 48 ore fa, eh? Il TUC, arriva il TUC, quella del cracker. Ma chissà se arriva davvero, è tutto sulla legge di stabilità. Ne stanno discutendo. Oh, questa è 24 mattino, noi ci siamo, sono le 6:33 minuti. Siamo pronti come sempre con Miriam Lucchetti in redazione, eccola là, e con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, eccolo lì, ad aprire che cosa? Il nostro Parlamento? Ebbene, ci siamo quasi tutti. Nicole? Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti è sempre qua, interterrita da anni a offrirci il caffè. Oh, non si schioda proprio, no? Offre il caffè a tutti. Paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Voglio salutare anche i Two Fingers, sono gli autori di questa canzone, Parlamento si intitola. E allora voglio salutare anche la nostra imprescindibile Paola Saluzzi, buongiorno. Che ti ridi? Buongiorno, Alessandro. Ma che no, ti ridi? Imprescindibile, mi è piaciuta moltissimo. Ma ho un suggerimento, invece del tuk tuk, sì. Il tuca tuca, l'immortale Raffaella Carrà. Il tuca tuca, ma infatti, ma guarda, ma che sono quelle cose? Ma intanto, il tuca tuca, tuca tuca, hai fatto, ecco, guarda, hai detto il tuca tuca, Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, ha messo giù. Hai sentito? E mi si è emozionato il direttore, mi si è emozionato il direttore così. Mamma perché tu lo ballavi tuca tuca da piccolo, Alessandro? Io ballavo, ero campione regionale di tuca tuca da piccolo. Sì, ho un diploma qua, me lo sono attaccato in redazione. È meraviglioso. Votate Milan, votate Arino, votate Arino, Milan, va. Votate Milan e abolirò il canone a tutti. Forza, Paola. Mi piaci. Vedi, quando la regia è geniale. Grazie, grazie Alpino, grazie, grazie. No, perché oramai è un balletto continuo, insomma, il tuc, il tac, il tic, certo. Insomma, i tic ci stanno venendo, su questo non ci sono. Il tic, i tic anche ci stanno venendo. Ma tanti, proprio come Dreyfus dell'ispettore Cluso. Bisognerebbe fare proprio come Checco Zalone quando gli bussano quelli di Equitalia. No, grazie, siamo cattolici qui, non abbiamo bisogno. Ecco, non possiamo aprire. Bene, potrebbe essere un'idea. Bene, siamo funamboli noi, cari signori, ma io mi rivolgo ai nostri ascoltatori, dico nostri perché oramai siamo un gruppo di famiglia, sì, il sì. Lunedì sera, sì. E lo dico seriamente, sì. Sulla 7 Gold c'è, cioè, sì. Un grande Alessandro Milan, oh, che dalla radio passa alla TV, lo e lo dico di cuore, lo spottone di Paola lo Saluzzi, lo dico perché Milan è bravo e propone temi belli e importanti, di pure che è bello, 7 Gold. Di pure che è bello, è bravo, è bello, così lo spottone. Ma questo oh. Come dire, sono fatti della sua signora, la signora Milan. Bene, caro Milan, parliamo della bravura. Ecco, bravo. Ecco. Allora voglio salutare Luca Dini. Buongiorno, ben ritrovato, direttore, ci sei? Buongiorno, è anche biondo, vorrei aggiungere. Ah, no, ma tu? No, direttore, buongiorno. Sono sempre io quello, pensavo ti fossi fatto biondo, Luca. No, no, invece Luca Dini non è biondo. Parlavi no. Sempre di me, parlavi di me. Allora, il tuca tuca, voglio partire da questo. L'avete sentita la deputata? Io, Miriam Lucchetti è arrivata qui stamattina col dito, con l'indice accusatore, dice: tu li hai pure votati, tu li hai pure votati. Mi guardava così alle 6 del mattino e gli dicevo: ma che, quella del Movimento 5 Stelle, l'avete sentita? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Vogliamo sentirla nel decennale della strage di Nassiriya, fa parte della commissione difesa, tale deputata Emanuela Corda. Che cosa ha voluto fare? Ha voluto ricordare tra le vittime anche il kamikaze. Sentite. Tutti noi ricordiamo commossi 19 italiani deceduti in quell'attacco kamikaze e oggi siamo vicini ai loro familiari. A volte ricordiamo anche i 9 iracheni che lavoravano nella base italiana, ma non troppo spesso. Nessuno ricorda però il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage. Oh, E nessuno lo ricorda qua. Luca, direttore, ma uno come gli viene in mente? Ma certo che dal punto di vista tecnico è una vittima anche quella persona, ma ha fatto una scelta, cioè ha fatto questa scelta, che poi tra l'altro, sentite, l'onorevole Corda, ecco perché lo considera una vittima, sentite, eh? Una ideologia criminale lo aveva convinto che quella strage fosse un gesto eroico e lo aveva mandato a morire, e non escluso che quel giovane, come tanti kamikaze islamici, fosse spinto dalla fame, dalla speranza che quel suo sacrificio sarebbe servito per far vivere meglio i suoi familiari, che spesso vengono risarciti per il sacrificio del loro caro. Caro Luca Dini, che cosa dobbiamo aggiunge, insomma, la fame lo ha reso una vittima anche lui con questa scelta. Ma, a parte che è una boiata nella sostanza, perché appunto ci sono scelte individuali e non è la fame o la povertà che automaticamente spinge una persona a fare una cosa del genere, altrimenti è come quelli che dicono, insomma, che alla fine anche i criminali nazisti erano vittime di un'ideologia sbagliata, eccetera, eccetera. Insomma, non è vero. Non ci sta. E poi è talmente inopportuno ed è talmente uno schiaffo in faccia ai familiari delle vittime, ai superstiti, persone che peraltro hanno soffrono anche di una totale assenza dello Stato, non sono stati riconosciuti come dovevano, sì, ma la poi cosa più inopportuna del esatto, mondo. Bravo, hai detto la parola giusta, inopportuna. Cioè, noi ci distinguiamo in queste commemorazioni, non riusciamo neppure, cioè a 10 anni già le persone, le vittime sono state dimenticate, i superstiti, i sopravvissuti sono stati dimenticati, nessuno si ricorda i nomi, eccetera. E già questo. E poi nel giorno, no, del decennale, cara Paola Saluzzi, che succede? Non riusciamo a farci notare per queste cose qui, non penso, si sa perché. Con una forma di sana invidia, spero che il termine possa passare, a quelle case negli Stati Uniti dove si espone la bandiera, dove se un figlio o un parente ha combattuto ed è rimasto lì perché combatteva, indipendentemente dal fatto che poi le guerre siano scattate e abbiano portato morte, che le guerre siano scattate perché c'erano le armi di distruzione di massa e invece non c'erano, che siano state anche fatte tante bagianate ingiustizie, non abbiamo dubbi, inopportuno mi sembra il termine minimo. Cioè noi ieri avremmo dovuto avere le città tappezzate di tricolore. Sapete che vuol dire tappezzate? Tappezzate. Ieri ho avuto la faccia, perché qualcuno me la critica pure, di dirlo in onda nel pomeriggio di Sky, certamente non mi viene criticato a Sky questo atteggiamento. Ho detto, un tempo il presidente Ciampi disse, un tricolore in ogni famiglia, se l'avete dentro casa esponetelo alla finestra, per memoria, si chiama memoria, si chiama rispetto, perché non credo che se la signora avesse un fratello morto a Nassiria se ne sarebbe uscito fuori con la storia del marocchino. Ma questo è ovvio, certo, c'è questa e allora bisogna mettersi nei panni degli altri. Poi se vuoi fare il trattato storico e sociologico sul perché i kamikaze si facciano saltare per aria, allora calcoliamo anche le vittime delle Torri Gemelle, mettiamo dentro anche quelli che hanno pilotato gli aerei. Va bene, vogliamo contare i morti? Contiamoli no, tutti. Poi io dico, hai un Paola, fratello morto a Nassiria? Certo. No, e allora sta zitta. C'è da dire che poi, ecco, interessante questa tua proposta, perché poi molti dicono, e ci sta anche, ma insomma, i militari che sono andati in guerra lo hanno scelto loro, perché ci sono anche... Ma certo queste, cioè, c'è quel, certo. No, ma voglio dire, quel contrasto alla retorica che qualcuno forse ti ha incolpato. Sì, sì. Di però, però i familiari non l'hanno chiesto loro, cioè di essere familiari, ecco, di... Tu dici, bravo, direttore, è una questione di rispetto, ecco. Di rispetto, sì. Intanto per le famiglie che hanno perso delle persone, no? Ma quali prendiamo ancora... ma quali scusatemi, poi sì, sono zitta, mi taccio, sì. Ma qua ne parliamo male perché diciamo vanno lì per pagarsi il mutuo, ma come ti permetti di dire una cosa del genere di gente che va lì a lavorare? Vanno lì per pagarsi il mutuo perché li pagano di più, ma questo dovrebbe essere presa questa gente, in generale sto parlando, è un attimo riscritta nella testa, quantomeno sai che faccio, ti piglio, ti porto e ti porto laggiù, vai a vedere come lavorano, vai a vedere. Sapete, Paola, su questo si accalora, direttore, dice la questione della mancanza di rispetto, no? No, dicevo che ancora adesso in Italia, ancora pochi giorni fa c'è chi ha gridato 10, 100, 1000 in Siria, insomma. Vabbè, ma quelli sono cerebrolesi, quelli sono cerebro non abito, sono semivivi mugolanti, 100.000 in Siria. Ci andassero loro e saltassero loro per aria, appunto. A quanto pare hanno anche dei rappresentanti in Parlamento, perché insomma, cioè, mutatis mutandis, non è che questa onorevole, anzi cittadina, abbia fatto una cosa molto più intelligente. No, ma questo certamente. Comunque, insomma, oggi sui giornali è tutta una polemica, perché ovviamente questa frase è stata scioccante, ma anche il volere, per carità, poi si è ingamberata nel voler giustificare, no? Perché queste persone, spinte dalla fame, da un'ideologia distorta, eccetera, ma come dici tu, Lucarini, poi c'è il rischio di giustificare tutto così, no? Ma poi c'è la responsabilità individuale, non si può fare un così, cioè, quante assurdo. Persone giustamente sofferenti per la fame, le ingiustizie anche, combattono in un altro modo, che non è quello di imbottirsi di tritolo e andare. Ma anche il signor Kapler o quell'altro lì che è morto l'altro ieri, che manco mi ricordo il nome. Pripke, come si chiamava, anche quelli avevano un'ideologia in fondo, per loro noi eravamo soggetti, eravamo razza minore, allora così scusiamo tutto. No, ma è chiaro. Allora, volendo cambiare tema e parlare della politica, oggi quando ho letto il titolo di prima pagina di Repubblica, ricordo che siamo durante la 28esima settimana decisiva per la riforma elettorale, leggo Repubblica, legge elettorale. La grande paralisi, titolo di prima pagina, ma come? Cioè, ma dai, ma per favore aiutatemi, ma come la legge? Bene a noi la paralisi. Però Paola Saluzzi aveva detto che entro fine novembre, aveva fatto questo pronostico, entro fine novembre ci credo, entro fine novembre arriva la legge elettorale, ci crede fino in fondo, ci crede anche Renzi, credo che abbia detto, anche perché il 3 dicembre non se ne parla come al solito in Italia, poi se ne parlerà il 2, il 3 dicembre credo la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sul ricorso di un cittadino e potrebbe la Corte Costituzionale bocciare questa legge elettorale, cioè non ce l'hanno fatta i politici e ce la faranno loro. Vabbè, comunque la legge elettorale. Siamo tutti là sotto alla Corte Costituzionale con i palloncini. Dai, ti prego. Forza, tutti dalla Corte Costituzionale. Oggi, aiutateci. Tra l'altro, io lo devo dire, di Corte Costituzionale parlerò alle 8:15, definita il più grande scandalo della pubblica amministrazione da Roberto Perotti, che sarà il nostro ospite della voce.info, ha fatto tutti i conti di quanto costa, eccetera. Avremo lui e avremo Valerio Nida, ex presidente della Corte Costituzionale, sarà un bel confronto. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo con Luca Dini e Paola Saluzzi. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 6:48 minuti oggi. C'è stato un problema al file, il computer, Paola Saluzzi, non ci ha salvato il file della segreteria telefonica. E questo ti significa che sta succedendo quello che succede in 2001 di Sole nello Spazio, che prima o poi arriva un NAL 9000 e fa quello che vuole. Non esiste che non abbiamo la segreteria telefonica. Però almeno abbiamo salvato lo stornellator cortese al volo, questo, lo stornellator cortese. Vuoi campare senza far sforzo? Devi andando c'è il rimborso, sia provincia sia regione paga sempre pantalone. Compri l'acqua di Colonia o fai un viaggio in Patagonia, tu compili una richiesta e nessuno la contesta. Che se tratti di un panino o un biglietto per Pechino, a rimborso c'è il diritto e la legge dove sta scritto. Altro che cassi integrati, licenziati o esodati, tutto un popolo sfigato che non è raccomandato. Se rubà non sei capace, campo afflitto e date pace. Eccolo là. Bravo. A proposito di rimborsi, l'ultimo è l'assessore alla regione Abruzzo, è stato arrestato Luigi De Fanis, intercettato fa così, metti lo champagne, il conto della regione, metti lo champagne nel conto della regione, la migliore battuta è del Fatto Quotidiano, arrestato l'assessore che usava i fondi alla cultura. che ci faceva con 5 euro? Vabbè, d'altronde questi sono i fondi alla cultura. Oggi, caro Luca Dini, ho trovato su Vanity Fair un servizio, dimmi, che è nato dalla disfida che tu hai ingaggiato con la segreteria telefonica. No, adesso no, però sulla vicenda di Lampedusa. Sì, esatto, è nato da quello. Perché sapete che Luca Dini aveva un po' litigato a distanza, dicendo con quelli che dicevano: ah, salviamo questi qui che muoiono, che chi se ne frega, ci sono altri problemi rispetto a quelli che fanno le traversate. Allora tu che hai fatto Vanity Fair, hai mandato Silvia Nucini a raccontare proprio i salvataggi in mare e che è emerso da questo servizio. Guarda, ti posso leggere solo una cosa, sono le parole di un... di uno di questi ragazzi somali, erano somali questi, dopo il salvataggio. Lui dice: sapevo che era pericoloso, ma volevo provare a vivere come un uomo libero. Valeva la pena rischiare di morire per provare a essere liberi. Non so nuotare e quando ho visto la vostra barca arrivare ho pensato: se sono libici mi butto in mare e annego. Invece eravate italiani e sai com'è stato? Come quando è mattina e nasce il sole. Parole anche molto molto bravo direttore che te ne sei occupato, bravo, grazie. E insomma, questi sono ovviamente, Luca, in questo caso hanno intercettato appunto dei somali, quindi, che fuggono da uno dei paesi più devastati, ecco, dei somali che stavano affondando, e ci hanno messo molto tempo, ore, a convincere alcuni di loro a salire, perché erano convinti che fossero libici, che già troppe volte alcuni di loro erano stati ricatturati e riportati indietro nei campi dove vengono derubate le donne, violentate, maltrattate. Insomma, è una cosa da conoscere prima di giudicare. E certo, ne raccontate nel numero di Vanity Fair, che io ricordo tra l'altro in copertina, Laura Pausini, cara Panasonzi. Laura Pausini. Invece, no, ma io racconto di queste cose che mi sembrano più profonde rispetto alla politica che... Guardate un per po', no, perché, per carità, sì, per carità, forse è l'editoriale più giusto, perché ci sono tutte le divisioni, falchi, sono nati i falchetti. E sai chi sono, Paola Saluzzi, i falchetti? Ne abbiamo avuto uno ieri in onda. Porca miseria. Sì, un bel di falco. Chi era uno di questi due fratelli? Sì, i falchetti. Zappa Costa, sì. Zappa Costa. Ha detto, ha motivato, insomma, le sue ragioni. E gli ho detto: ma vi dispiace se li chiamate baby falchi? Assolutamente no. No. E siamo i falchi, i baby falchi. I falchetti. Insomma, voglio dire, quando verranno fuori i gattini, porterò la mia Caterina. In onda. Oggi chi porti? Io vedo Barbagianni. No, effettivamente. Cioè, viva i falchetti, se la politica dall'altra parte sono soprattutto Barbagianni. Tu chi porterai? Oggi cosa porterai? Poi Oggi siamo a sorpresa, Alessandro, nel senso che insomma, abbiamo cercato fino a ieri sera di trovare dei nominativi che vi hanno dato molto importanti. Quindi non svelo nulla, vi aspetto alle ore 15, guarda che spottone che mi fai fare, vi aspetto alle ore 15 sul nostro pomeriggio di Sky. Vabbè, ce la facciamo a sentire Mussolini, sentite che dice di Alfano, Alfano. Alfano ha pianto, quindi il segretario politico deve prendere la parola e convincerci su posizioni politiche. Brava, non piangere in faccia a Berlusconi come uno scolaretto che ha fatto una marachella. Scusa, posso capire? Diciamoci la verità. Io non c'ero, ma voi due sapete. Quello ha pianto, noi Formigoni. Mirta, noi eravamo sconvolti per la giornata. Abbiamo detto, ma era la giornata della fiducia. Piange. La giornata della fiducia. E lui è venuto a fare la riunione con voi al gruppo e a pianto. Era da Mirta Merlino, a pianto, Alfano a pianto. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio Paola Saluzzi e grazie a Luca Dini. Ci un ritroviamo. Robusto mercoledì, grazie. Ah, beh, certo, sai, sempre robusto. Grazie davvero, il nuovo numero di Vanity Fair in edicola, alla prossima e ora giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali, e voi ci siete? Razza di debosciati. Sveglia! Sveglia! Forza! Dai che bisogna andare a lavorare! E allora, eccoci qui. Vi ricordo che oggi parleremo alle 8:15, mutuando un po' il nostro urlo, la carta costa, quello del premio della rassegna stampa, la corte costa. Parleremo della Corte Costituzionale, perché c'è uno studio, un nuovo studio di Roberto Perotti della Voce.info, che sarà nostro ospite, che ha definito la Corte Costituzionale e i suoi costi lo scandalo principe della pubblica amministrazione. Avremo con noi anche Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, a difendersi dalle accuse che sentiremo da Perotti, a dire è un vero spreco di denaro incredibile quello della Corte e dei 15 giudici della Corte Costituzionale. Ne parleremo alle 8:15. Ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. In questo mercoledì 13 novembre, i titoli intanto: Il Sole 24 Ore, l'effetto BCE sui bot, tassi ai minimi storici. Questa è l'apertura, mentre le altre aperture sono tutte abbastanza variegate. C'è un'incredibile apertura di Repubblica sulla legge elettorale. Legge elettorale, la grande paralisi. Incredibile, perché sapete, io tengo il conto. È in corso la 28ª settimana decisiva per la riforma elettorale, e si legge su Repubblica: legge elettorale, la grande paralisi. Per il Corriere della Sera invece c'è un'intervista ad Alfano in vista del congresso del PDL di sabato. Alfano, PDL unito e sì al governo. Questo è il titolo di apertura. Libero invece, Letta, 24.000 euro per una sedia. Si fanno i calcoli delle spese di ristrutturazione che ci sono state a Palazzo Chigi. Il Messaggero, l'aumento benzina salva l'IMU. Sembra ormai certa che salteranno gli incassi della sanatoria sui giochi e quindi scatterà la clausola di salvaguardia che fa aumentare la benzina. Io ho detto, speriamo davvero che non sia così, non si vorranno così male al governo per fare questa cosa. No, no, no. La Stampa, sconto IRPEF, dubbi del governo. Mentre Il Fatto Quotidiano, c'è un'intervista al procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri. Papa Francesco, attento alla mafia. Questo è il messaggio di prima pagina. Il Giornale invece, la vergogna 5 Stelle, bomba dei grillini sui morti di Nassiriya. Mentre L'Unità, l'Europa resta senza lavoro. Il Manifesto invece apre su rosso relativo, è il terzo plenum del Partito Comunista Cinese che si è concluso in Cina. Insomma, come vedete, ogni giornale sceglie un'apertura davvero diversificata quando non c'è un'unica notizia che accomuna le varie aperture. Allora voglio partire proprio dalle polemiche che abbiamo già sentito anche in audio alle 6:30 dopo l'iniziativa e la fuoriuscita della deputata del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda, che ieri, proprio nel decennale delle commemorazioni della vittima di Nassiriya, ha parlato di, in qualche modo, cercare di capire e ricordare tra le vittime anche il kamikaze marocchino, colui che, spinto dalla fame, spinto da una ideologia distorta, si è immolato ed è vittima anche lui. Ovviamente le polemiche, addirittura Il Giornale lo mette come titolo di prima pagina sotto la dicitura vergogna 5 Stelle, ripropone anche lo sbobinato di tutto l'intervento in prima pagina, la follia grillina, onore al kamikaze. Ma anche sul Corriere della Sera c'è mezza pagina su questo: Nassiriya, l'affronto alla Camera, l'articolo di Fabrizio Caccia. Nel giorno dei caduti una grillina omaggia il kamikaze, vittima anche lui. Oppure sul Quotidiano Nazionale, Nassiriya, grillina sciocca la Camera, ricordiamo anche il kamikaze. E anche il pretesto per l'editoriale di Mario Giordano in prima pagina di Libero, il titolo è: i grillini piangono il kamikaze che fece strage di italiani. Scrive Mario Giordano: la sapete l'ultima dei grillini? Nel giorno del ricordo di Nassiriya decidono di commemorare il kamikaze. Avete capito proprio bene, il kamikaze. che è un po' come se nel giorno della Shoah qualcuno dicesse che non bisogna dimenticare Goebbels, o come se il giorno in cui si ricordano le vittime del razzismo qualcuno spendesse una parola per omaggiare quei poveri ragazzi del Ku Klux Klan. Ci sarebbe quasi da sorridere se l'assurda barzelletta 5 Stelle non si andasse a innestare stavolta su una delle pagine più tragiche della recente storia italiana. Poveri soldati che sono morti per difendere questo paese. Chi glielo dice che il paese ora è rappresentato da quelli che stanno coi kamikaze? È come se da un'aula, come se da quell'aula del Parlamento fosse uscita un'altra bomba per ucciderli di nuovo. La bomba l'ha tirata tal Emanuela Corda, detta Manu. Sarda, 29 anni, libera professionista dedicata alla comunicazione e meno male, scrive Giordano, che fa parte della commissione difesa. Insomma, i commenti sono, qualche giornale non dedica una parola a questo, o se no, di vergogna e sdegno. E vergogna e sdegno invece certamente sono condivisibili per quello che è l'ultimo scandalo in ordine di tempo sulla questione dell'assessore alla cultura della regione Abruzzo, arrestato ieri. L'accusa è che si faceva un po' di creste sugli eventi e poi spendeva soldi della regione, soldi nostri, spese sue, la solita accusa. Tra l'altro la battuta migliore l'ho trovata in prima pagina del Fatto, devo rettificare, è di Spinoza, certo, l'ho trovata sulla prima pagina del Fatto perché ogni giorno c'era la battuta di Spinoza, no? Assessore abruzzese arrestato per aver intascato i fondi destinati alla cultura. Chissà che ci avrà fatto con quei 5 euro. Vabbè, d'altronde l'assessore Luca De Fanis è stato arrestato. Offro champagne da 130 euro, tanto pago coi fondi della regione. Questo è l'articolo del Messaggero che dedica un'intera pagina a questo, pagina 16, Maurizio Cirillo. Tutto è nato dalla denuncia di Andrea Mascitti, un musicista che dice: mi sono presentato dall'assessore per una convention musicale e lui mi ha messo da parte in una stanza e mi ha detto: va bene, quanto costa tutto questo? Ok, aggiungi 3-4 mila euro per me e altrettanti per lui, evidentemente per un collaboratore. Ci vuole tale somma perché se no per me non si può fare nulla. Insomma, sembra la classica tangente, sembra, per carità, tutto deve essere dimostrato. E però poi ci sono le intercettazioni, racconta il Messaggero, sentitele l'assessore abruzzese, ha offerto una bottiglia di champagne e il collaboratore, come al solito tu, e che devo fare? Mo vedo di pagarla con la cosa della regione, viene 130 euro la bottiglia. E beh, pagala con quella della regione, dice l'interlocutrice. E beh, a me piace fare così, dice l'assessore. Purtroppo chi nasce signore e dispendioso è così. E avete capito, all'assessore abruzzese piace così. Offrire champagne con la carta della regione. A me piace così. A lui piace così. Abruzzo, tangenti sulla cultura, arrestato l'assessore, è il titolo anche di Repubblica, anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a regioni furbette tra IBAN e Vate, il furto continua. Vate è il nome dell'inchiesta che ha portato agli arresti l'assessore della regione Abruzzo, ma giustamente il Fatto ricorda con Chiara Paolina, pagina 5, che è solo l'ultimo in ordine dei tempi degli scandali accaduti. Vabbè, prima della pubblicità vi voglio raccontare anche quella storia che trovate su tutti i giornali, la leggo in prima pagina da Repubblica, è la storia di un professore che qualche anno fa, si chiama Roberto Valvo, ex docente al liceo Ripetta a Roma, nel 2008 in una lezione negò la Shoah, minimizzò il numero delle vittime e, su richiesta di una studentessa ebrea, questo ha detto l'avvocato difensore. Insomma, negò in classe la portata dell'Olocausto, è stato però assolto dall'accusa che doveva rispondere, cioè incitazione alla violenza, alla discriminazione razziale, come previsto dalla legge Mancino, perché, ha detto il giudice, il fatto non sussiste. Assolto il professore che negava l'Olocausto. Sapete che c'è tutta la polemica, abbiamo dedicato anche una trasmissione sulla legge in discussione per rendere reato appunto la negazione degli genocidi, era accusato di avere propagandato idee fondate sulla superiorità razziale, sull'odio nei confronti degli ebrei dall'alto della cattedra del liceo artistico in cui insegnava. 5 anni fa il professor Roberto Valvo, insegnante al liceo Ripetta a Roma, aveva raccontato a 3 studenti che gli ebrei erano dei furbetti e che bisognava farvi attenzione. Poi aveva continuato il discorso parlando di olocausto, mettendo in dubbio il numero dei morti a causa di alcuni problemi storiografici. Infine aveva concluso che i filmati sui campi di concentramento non erano stati girati durante l'eccidio nazista, ma solo successivamente, come lo stesso Alfred Hitchcock aveva fatto. E il giudice Maria Cristina Muccari ha assolto il docente dall'accusa di incitazione alla violenza e alla discriminazione razziale perché il fatto non sussiste. Questa è la sentenza che fa un po' discutere oggi sui giornali. Intanto andiamo in pubblicità e ripartiamo dalle cose della politica e non solo dell'economia. 24 mattino. Allora, di che cosa si è occupata la politica, cari italiani? Di legge elettorale. Io tengo il conto, dico ironizzando amaramente che siamo alla 28ª settimana decisiva in questa legislatura, poi ci sono quelle precedenti, per la riforma elettorale. E che ti combina? Guardate oggi il titolo di apertura di Repubblica, legge elettorale, la grande paralisi, 4 pagine, le prime 4 pagine di Repubblica dedicata a questo. Il porcellum, il super porcellum, il porcellinum, il mattarellum. Quale argomento migliore per le vostre colazioni in questo momento, cari italiani? Certamente se entrate in un bar tutti staranno parlando di questo, al posto di lavoro, alla macchinetta del caffè. Il primo argomento che sviscererete oggi sarà il porcellinum, il super porcellum, il mattarellum o il porcellinum, che è quello che ho già detto. O il doppio turno, o il proporzionale, e chi lo sa? Sono domande filosofiche sulle quali gli italiani si dividono moltissimo. Sta di fatto che rimane davvero l'amarezza di un'impasse politica clamorosa, anche perché il 3 dicembre la Corte Costituzionale dovrà decidere su un ricorso di un cittadino sulla validità di questa riforma elettorale, e quindi bisogna fare in fretta, altrimenti può capitare che quello che la politica non è riuscita a fare in mesi, mesi, mesi di inutili chiacchiere venga fatto per sentenza della Corte Costituzionale, cioè modificare la legge elettorale. Bocciato il doppio turno, Renzi attacca, il PD diviso. Ecco, questo per esempio è il titolo di pagina 17 del Sole 24 Ore con Mariolina Sesto, che racconta nulla di fatto annunciato in Commissione Affari Costituzionali. Avete capito? Nulla di fatto per quel che riguarda la riforma elettorale. I partiti, su richiesta del PD, si sono presi qualche giorno di tempo. Tutti in pausa, fino a mercoledì della prossima settimana, quando in un ufficio di presidenza della Commissione si decideranno le prossime tappe della riforma elettorale. I tempi della riforma, scrive il Sole, dunque, si allungano ancora. E si avvicina così la data del 3 dicembre, quando la Consulta potrebbe pronunciarsi sulla legittimità del porcellum. Ci sono tutti i retroscena, come si mettono e si posizionano i partiti. C'è un retroscena su Matteo Renzi a pagina 3 di Repubblica. Salta il blitz per il super porcellum. Qualcuno vuole un ritorno al passato, il sindaco di Firenze che dice su questo mi gioco tutto politicamente, secondo Repubblica. Leggetelo se siete appassionati di questa vicenda. E poi c'è l'appello, e ormai sembra quasi disperato, del capo dello Stato, che cosa dice Napolitano? Serve responsabilità su questo tema. Il porcellum resiste. Il Corriere della Sera, pagina 11, Dino Martirano racconta questa giornata in cui insomma succede che non succede nulla. L'altra notizia politica che ovviamente verrà tenuta molto alta dai giornali fino a sabato è la questione interna nel Popolo della Libertà. Sabato c'è questo congresso nazionale, anche se Quagliariello, che fa parte di quelli governisti, dice sabato il campionato è sospeso e dunque vedrete che in qualche modo qualcosa succederà. Cioè ha evocato una sorta di sospensione all'ultimo momento di quello che sembra invece sabato un confronto da resa dei conti. Alfano oggi, ministro dell'Interno, nonché segretario del Popolo della Libertà, è colui che, visto come il capo dei lealisti al governo, e quindi anti Berlusconi, che vuole invece, come dire, andare su una linea di rottura, soprattutto se passasse la decadenza. Alfano oggi, dicevo, fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Francesco Verderami, mezza pagina, pagina 5. Voglio davvero l'unità, la crisi non aiuterebbe il Cavaliere, dice le cose che sta dicendo da mesi, le reazioni che ha avuto Berlusconi li avrei avute anch'io di fronte alla somma ingiustizia che ha subito. Fino all'ultimo comunque chiederemo al PD di fermarsi sull'applicazione retroattiva della legge Severino. Ma quale sarebbe la linea altra rispetto a salvaguardare il governo? Solo gli ipocriti e i cinici non dicono che in caso di elezioni anticipate, se mai ci fossero, il presidente Berlusconi non sarebbe candidabile. Teorizzano elezioni al buio, delle quali ci dovremmo assumere la responsabilità senza poter disporre del nostro campione. Lo chiama così Berlusconi, il campione Alfano. E allora mi chiedo, chi offendo se sostengo tutto questo? Se è vero come è vero che il caso Berlusconi giudiziariamente non è chiuso e potrebbe riaprirsi nel 2014, allora proprio lui nel 2015 potrebbe tornare in campo. Ecco perché credo ancora in una soluzione unitaria. Dunque invoca una sorta di unità, e alla domanda di Francesco Verderami, ma lei non teme di fare la fine di Fini? Quella del presidente Berlusconi, risponde Alfano, non era una minaccia perché lo conosco e perché lui conosce me. Lui sa che nel governo ci sono entrato per sua volontà, sa che le larghe intese per noi sono solo un passaggio per costruire una larga vittoria del centrodestra. Lui sa tutto. Così Alfano, che invoca Berlusconi. Berlusconi invece è preso sulla questione, raccontano ieri i giornali in retroscena, ancora a insistere, se decado non si va avanti. Tra l'altro appaiono questi nuovi, i fratelli Falchetti sono già stati definiti, Luca e Andrea Zappacosta, i cosiddetti baby falchi, hanno raccontato tutti i giornali la cena che è avvenuta ieri. Presente Berlusconi, organizzata da Daniela Santanchè, hanno partecipato 150 giovani, tra cui i cosiddetti Falchetti, no? E i due più esposti mediaticamente sono appunto questi, Luca e Andrea Zappacosta. Sentite e cosa scrive Il Secolo XIX, pagina 4, con Ilario Lombardo. Azzurri, un casting stile Lewis, la Santanchè sceglie i rampanti. Lewis è l'università a Roma, abito, cravatta, cappotto lungo per lui, tacchi alti, gonna, trucco per lei, impossibile non riconoscere le nuove leve berlusconiane. Nicola, 19 anni, bolognese, un accento che sembra proprio quello del brianzolo più famoso d'Italia. E poi questa altra ragazza, tutto è partito da Andrea Zappacosta, 23 anni. Gli Zappacosta sono nuove creature della telepolitica, eleganti anche troppo per la loro età, capelli cotonati, favella che funziona. Ed eccoli qui i nuovi giovani, i Falchetti, raccontati da Ilario Lombardo sul Secolo XIX. Vabbè, poi c'è tutta la vicenda del PD invece, che vedremo tra poco con Matteo Renzi che risponde a Twitter a tutti, ma c'è anche un endorsement molto molto importante all'interno del centrosinistra, vale a dire Carlo De Benedetti, che per la prima volta in maniera ufficiale dice voterò Matteo Renzi. Ma lo vedremo tra poco in profondità. Intanto voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Stacchiamoci per un attimo dalla politica e capiamo che cosa c'è sul Sole oggi. Oggi innanzitutto ti segnalo che diamo, come oramai d'abitudine, il mercoledì un nostro focus, cioè un inserto in più. Questa volta ci occupiamo di risarcimenti dei danni. Cose che ovviamente non si augurano, ma che possono capitare, spieghiamo come fare, come funziona. E poi naturalmente, che vuoi fare? I bot ieri, cioè l'andamento della vendita dei tassi, con i tassi che sono scesi dopo la mossa della BCE, e la legge di stabilità sono i temi principali. Tra l'altro leggevo, sai che non è il record 3.093 emendamenti? Cioè non è il record? No, siamo molto lontani. Roberto Turno è andato a strucculare un po' nella storia, c'è un record addirittura a 130.000 emendamenti. Una cosa di livello industriale, però abbiamo avuto regolarmente anche 4, 5.000, 7.000 emendamenti. Quindi ci va bene, insomma, ci va bene. Che dobbiamo... Perché tu stia preoccupato, sappi che comunque al conto di annullamento della benedetta seconda rata IMU, Mancano 600 milioni ancora, non è che hai qualcosa da parte. Quanti? 600? Io 600 milioni. Io ho sempre quei 2 eurini con i quali giro in tasca, lo sai. E li metto a disposizione, 2 e non di più. Di più, scusate, ma non gliela faccio. Guarda, tienili cari, che fai bene. No, li tengo cari, quindi non li metto a disposizione, li trovano loro. Vabbè. No, tienili cari nel senso lasciali lì perché poi te li chiederanno. Può darsi che te li chiedano. Il 14 dicembre, il 15 dicembre, tipo un giorno prima. Qualche giorno, esatto. Sai che parliamo un po' di calcio, che è un po' che non lo facciamo, ma non ti preoccupare, parliamo di squadre inglesi. Fantastico, ottimo. Mi piace il calcio inglese. Il calcio inglese ti piace? Allora, guarda, sappi che Google, dopo un'avvertenza con la Premier League, la Serie A inglese, hanno trovato un accordo, perché su Google viaggiavano i filmati degli highlights, cioè i gol, insomma, la gente andava a vederli lì e le televisioni dicevano: ma come, noi paghiamo l'esclusiva e voi lo date su internet? Bene, è andata a finire che le televisioni hanno trovato l'accordo, hanno detto: vabbè, cara Google, fai tu, metti tu i filmati, sorveglia tu che non ci siano filmati pirata. Una storia molto carina di cambiamenti della nostra vita quotidiana, la racconta Alessandro Galimberti nelle pagine di Norme e Tributi. Tanto per dire, non ci sono cose magari solo difficili, ma anche cose leggere, nelle pagine di Norme e Tributi. Come il calcio, anche se di questi tempi il calcio è abbastanza pesante, almeno per me. Caro Mauro, da dove lo guardi. Certo. Sì, certo. Mauro, intanto ti ringrazio, ci troviamo ovviamente domani, giovedì, sì, domani ci sei, e quindi no, io ormai ho perso il conto, speravo fosse venerdì, ma invece ci tocca anche svegliarci domani, è venerdì. Benissimo, grazie a Mauro Meazza del Sole 24 Ore, e dicevo appunto di Carlo De Benedetti, questo un endorsement importante che in un'intervista che è contenuta in un libro ma viene anticipata dal Corriere della Sera da Alan Friedman, ebbene dice: voterò il sindaco Carlo De Benedetti, tessera numero 1 del Partito Democratico, che poi già lui stesso dice in una vecchia intervista aveva definito Renzi un giovane non in grado, aveva un'opinione non negativa ma di una persona molto superficiale. Ora Carlo De Benedetti invece dice: voto Renzi, intanto per l'età, lo devo dire francamente, perché penso che sia necessario cambiare, saltare una generazione. Ormai la nostra speranza è legata a chi oggi ha meno di 40 anni. E poi è una persona molto quick, dice De Benedetti, cioè veloce, estremamente reattiva, è una spugna, impara le cose con una velocità, ha una capacità di assorbimento formidabile. Per la verità poi Carlo De Benedetti parla per la prima volta in questa intervista che trovate sul Corriere della Sera, pagina 9, parla per la prima volta anche dell'inchiesta. Lui è indagato insieme a Corrado Passera a Ivrea per l'Olivetti e per le presunte morti d'amianto di qualche anno fa, per la quale la procura di Ivrea appunto ha aperto un'inchiesta. E dice la difesa di De Benedetti: leggendo i giornali vedo e constato che una delle cause sarebbe lo stabilimento ICO. ICO vuol dire ingegnere Olivetti, che è la gloria, è stato l'emblema del successo di Adriano Olivetti con l'architettura industriale, una fabbrica totalmente di vetro, totalmente aperta. Ma Alan Friedman chiede se lui e Passera sapessero che c'erano problemi di amianto. No, replica De Benedetti. La legge italiana che ha proibito l'uso dell'amianto è del 92, quindi voglio dire, prima di allora nessuno, puntini puntini, lo usavano tutti. Ancora, intendendo, insisto, chiede Friedman, chiedendo se si era a conoscenza dei pericoli di questa sostanza che i lavoratori chiamavano talco, e lui dice: no, non si sapeva. E aggiunge: talco sì, ma voglio dire, io non lo so se ci fosse negli stabilimenti che non ho costruito io. Io ne ho costruito uno solo di palazzo durante il periodo in cui sono stato da Olivetti, che è il secondo palazzo uffici, e certamente quello non ha problemi. Così si difende Carlo De Benedetti, il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, ci sono tante notizie di cui vorrei raccontarvi, ma c'è tempo per alcune segnalazioni. Beh, davvero sono uno spaccato sempre più inquietante quello che emerge dalla vicenda delle baby prostitute ai Parioli. Ora si sta allargando questa inchiesta. Intanto pone una questione sociologica anche di rapporti genitori e figli. Tutti i giornali si chiedono da giorni, anche con interventi molto interessanti, impressionante, dire ma com'è possibile che davvero ci fosse una madre che sfruttava così una figlia. Ora, leggendo solo alcuni titoli, vuoi la mia amica, è vergine, 100 euro e 4 grammi di coca. Questa era una delle intercettazioni, per esempio, della sedicenne che è indagata ora per avere anche indotto alla prostituzione l'amica quindicenne. Sessa ai Parioli, arrestato un imprenditore, IPM, pagava le minorenni con la droga e nelle intercettazioni diceva aspetta, sono qui coi miei figli, ti chiamo dopo, cioè prima era coi figli e poi chiamava la escort, baby escort o baby squillo, quindicenne, sedicenne, davvero degli spaccati clamorosi. Maria Corbi invece sulla Stampa intervista quella che è un'ex ragazzina squillo, era una ragazzina, anche padri di famiglia venivano a cercarmi. Giulia oggi è maggiorenne ma racconta che si prostituiva a 15 anni e dice ecco lo schifo, ora dicono e mi fanno ridere quelli che dicono che le puttane lo fanno volontariamente, ma dove vivono, di chi parlano, hanno in mente le escort, ma comunque non credo sia giusto sfruttare il corpo di un'altra persona anche se dice di essere consenziente. Insomma, racconta la Stampa un passato davvero terribile, quello di baby prostituta a 15 anni. Beh, comunque su tutti i giornali trovate questo dibattito che è partito da un'inchiesta e si è allargato sempre più interrogando anche quello che sono i rapporti davvero familiari nella nostra società. Oh, mi ha molto colpito una pagina dedicata dal giornale Da Libera a questa vicenda che riguarda una giornalista norvegese. Sapete cosa è successo in Norvegia? Una conduttrice anche famosa del giornale, del telegiornale, Siv Kristin Selman, si è presentata con un crocifisso al collo, ma piccolo, piccolo, una di quelle croci che viene fotografate. Protesta della comunità islamica in Norvegia perché offende chi non è cattolico, e quindi questa persona, questa giornalista, è stata costretta dalla TV norvegese a togliere la croce. Porta la croce via dalla TV, Oslo cede alla lobby islamica, così titola il giornale a pagina 17, dedica una pagina, ma anche Libero, la TV di Oslo censura la croce, è un segno che offende l'Islam. Vabbè, sono in conclusione, non voglio dedicare mezza parola, anzi mezza sia, al comandante Schettino, paparazzato con una giornalista della RAI, pare che sia la sua nuova liaison, e il miglior titolo è di Repubblica, il comandante abbandona anche la moglie. Vabbè, passiamo oltre, passiamo alla conclusione, passiamo al momento dell'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Vince il premio La Carta Costa, il Corriere della Sera con Claudio Del Frate dedica mezza pagina abbondante a Filippo. E chi è Filippo? È colui che si è aggiudicato a Christie's i gioielli di Casa Savoia, anzi Filippo. Questo anonimo italiano che si è acquistato per 150.000 euro l'orologio dei Savoia che è finito ieri battuto all'asta a Christie's, è stato il protagonista della giornata. Filippo, orologio a parte, si è aggiudicato anche una collana di perle e una spilla di diamanti, staccando rispettivamente assegni per 32.000 e 38.000 franchi. Ma chi se ne frega, amici del Corriere, di questo Filippo che si è vinto, anzi si è pagato a suon di 100.000 euro qua e là i gioielli di Casa Savoia battuti da Christie's. E vabbè, succede anche questo, niente, non lo si capisce, la carta costa, continua a costare. Oh, anche la Corte costa, parliamo dei costi della Corte Costituzionale alle 8.15 dopo il giornale radio 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io, come se voi seguite la rassegna stampa che chiudo prima delle 8, la chiudo sempre con questo premio virtuale nominato La Carta Costa, no? Per l'articolo più strambo trovato sui giornali. Beh, oggi possiamo mutuare quel premio per dire, titolando questa parte della trasmissione, anche La Corte Costa. E parliamo infatti dei costi della Corte Costituzionale, che in Italia si chiama anche Consulta, è un organo costituzionale, un organo molto importante. Ci sono 15 giudici della Corte Costituzionale, è l'organo che stabilisce, insomma, deve garantire l'applicazione dei principi, degli articoli della Costituzione all'interno di un qualsiasi ordinamento giuridico, è un organo regolato proprio dalla Costituzione stessa. È un organo che però, da un articolo di lavoce.info a firma Roberto Perotti, che è stato nostro ospite anche la scorsa settimana, viene definito uno scandalo nascosto, forse addirittura per i costi, il più grande scandalo della pubblica amministrazione. Allora, noi abbiamo qui il professor Roberto Perotti, che saluto, buongiorno e benvenuto professore. Buongiorno. Perché insomma ci dovrà aiutare a capire perché di questi costi che la portano a dire forse lo scandalo nascosto e più incredibile della pubblica amministrazione in termini di sprechi o comunque di costi. Con noi c'è anche il professor Valerio Onida, che è stato presidente della Corte Costituzionale nel 2004 e nel 2005. Buongiorno presidente Onida, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Allora professor Perotti, diamo qualche numero che l'ha portata a da cosa vogliamo iniziare? Dagli stipendi dei giudici e del presidente della Corte, Perotti? Sono due numeri, credo, che sono significativi. Il primo è che lo stipendio di un giudice della Corte Costituzionale è di 460.000 euro e del presidente di 550.000 euro, mentre negli Stati Uniti gli stipendi sono esattamente la metà, meno della metà, 170.000 per il presidente e 165.000 per i giudici. Parliamo di netti o lordi, però? Parliamo di lordi. Lordi. Quindi insomma già tre volte rispetto a il presidente della Corte Suprema, diciamo, americana. Sì, tra l'altro so già una obiezione che mi è stata fatta frequentemente, che le funzioni delle due corti sono diverse, però oserei dire che la Corte Costituzionale americana, la Corte Suprema, ha avuto un impatto sulla vita del paese enormemente superiore a quello della Corte Costituzionale italiana, ha preso delle decisioni che hanno plasmato l'intero paese. La seconda cifra, che è meno sostanziale ma secondo me indicativa di un certo costume, è che se lei somma tutte le spese per le auto blu dei giudici, un giudice della Corte Costituzionale viene a costare solo per le auto blu e per gli autisti, perché hanno diritto due autisti per ogni giudice, viene a costare 750 euro al giorno ogni giudice. 750 euro al giorno, più appunto 550.000 euro lordi all'anno come presidente della Corte Costituzionale, mentre gli altri giudici 460.000 euro. Insomma, già queste cifre sono molto. Ecco, poi lei, oltre alla questione dell'auto blu, ha elencato una serie di benefit che io leggo dall'articolo della voce.info, a parte l'auto blu. Che cosa c'è anche? La tessera, vabbè, via card e il telepass sull'auto, il cellulare, il PC portatile, i costi dell'utenza telefonica domestica a carico della Corte, a meno che il giudice non chieda la rinuncia. E poi la foresteria all'interno della consulta, e basta, professor Perotti? Diciamo la cosa più scandalosa secondo me è avvenuta fino al settembre 2011, cioè tutti i giudici una volta andati in pensione dalla Corte Costituzionale avevano diritto a un auto blu con due autisti a vita, anche se avessero ricevuto altri incarichi privati o pubblici. Questo non c'è dal settembre 2011 hanno diritto solo per il primo anno dopo che si sono ritirati dalla Corte. Per il primo anno. Vogliamo dare qualche altro numero, così poi il professor Onida potrà rispondere. C'è anche la questione, lei fa il paragone, qualcosa ci ha già fatto con gli Stati Uniti, ma un altro termine interessante è che la nostra Corte Costituzionale costa il triplo di quella britannica. Sì, costa 41 milioni in totale, escluse le pensioni, contro 13 milioni di quella britannica. Questo non è secondo me il dato più significativo, perché si può sostenere che quella britannica è più giovane e ha funzioni diverse. Un altro dato significativo è che la pensione media dei giudici in Italia è di 200.000 euro. Ecco, la pensione, questo è un altro elemento sul quale magari il presidente Onida ci può dire. Allora, Onida, qua alcuni dati sono già stati, da cosa vuole controbattere o ribattere? Intanto... No, non voglio controbattere, la prima cosa che vorrei dire però è che mi meraviglia che si parli di scandalo nascosto, perché se ci sono dei dati assolutamente a disposizione, pubblici, trasparenti, sono questi sulla Corte. Lo stesso professor Perotti nel suo articolo, dato di aver scritto delle email e ricevuto immediate risposte, credo venerdì scorso, segreteria della Corte, e parla anche di, cita come fonti, comunicazione personale dell'ufficio stampa della Corte, comunicazione personale dell'ufficio stampa della Corte. Quindi vuol dire non c'è niente di segreto, di nascosto, questo mi pare sbagliato. E la Corte Costituzionale le sue spese, poi parliamo delle cifre, ma non c'è niente di nascosto. Forse è nascosto, è assolutamente trasparente. Forse è nascosto, il professor Perotti si riferiva al fatto che è nascosto un po' dalla stampa, nel senso che è scomodo parlarne, non so, professor Perotti. Ma perché non è scomodo, scusi, chi è? Infatti ne hanno parlato, lo stesso Perotti cita un articolo del 2008, un po' invecchiato e anche non del tutto esatto, diciamo, dell'Espresso, mi sembra. Ma non è vero che non se ne può parlare, se ne parla e se ne può parlare assolutamente. Io ti vorrei sapere, per esempio, se qualcuno, perché il giornalista ha fatto delle indagini così accurate, supponiamo, sui costi e sulle retribuzioni degli alti manager di imprese, di Stato o private. Beh, sono stati fatti, sì. Ogni anno escono anche le classifiche, quanto guadagna Marchionne, quanto guadagna e quanto guadagnano. Ci sono sempre le classifiche dei cosiddetti paperon dei paperoni. No? Però, professor Onida, allora veniamo alle cifre. Le cifre lei sono queste, insomma, appunto, visto che è tutto chiaro. Dunque, una precisazione, sì. Perché se dice retribuzione del giudice e retribuzione del presidente, come fossero due cose diverse. In realtà, intanto devo precisare che la retribuzione dei giudici della Corte è prevista nelle sue principi da una legge costituzionale del 1953, che dice i giudici della Corte Costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinato con legge. Quindi ecco un'altra cosa, certe volte i lettori o gli ascoltatori pensano che sia la Corte a dare non se l'attribuisce, diciamo, però. La legge è una legge, attualmente la legge modificata nel 2002, ma è una legge sempre del 53, che dice che i giudici della Corte Costituzionale hanno tutti egualmente, una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, cioè il primo presidente della Corte di Cassazione. Ok, ed ecco aumentato perché della metà. Poi aggiunge al presidente, inoltre attribuito una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione. Allora, l'indennità di rappresentanza non fa parte della retribuzione, tant'è vero che non è pensionabile. E per esempio, quando c'ero io alla Corte, facevo versare su un conto a parte che veniva utilizzato solo per spese di rappresentanza, appunto, venivano degli ospiti. Però questo, diciamo, presidente, non è retribuzione, retribuzione è uguale per tutti i giudici. È uguale per tutti. Questa è la spiegazione tecnica doverosa del perché c'è questa retribuzione. Se io le chiedessi di definire con un aggettivo questa retribuzione, lei come la definirebbe? È una retribuzione più che congrua. Più che congrua. Perotti, insomma, dal punto di vista tecnico, questa è la motivazione per cui ci sono le retribuzioni. Ne ero ben consapevole, prendo atto delle precisazioni minuziose del professor Onida. Ma questo significa che c'è uno scandalo ancora più nascosto su cui sto lavorando, ma purtroppo i dati sono molto più nascosti che per la Corte Costituzionale, che è quello della Corte di Cassazione, perché questo significa soltanto che i magistrati della Corte di Cassazione, su cui è parametrata la retribuzione dei magistrati della Corte Costituzionale, prendono delle vagonate di soldi. Evidentemente sì, se è parametrata quello, effettivamente quello è quello che dà il parametro su cui poi si basa lo stipendio, la retribuzione dei giudici della Corte Costituzionale. Professor Onida, sulla questione dei benefit, anche questi sono. Cioè, lei mi faccia capire, lei tra l'altro è ex presidente della Corte Costituzionale, ha ancora, per esempio, non avrà l'autista perché fino al 2011 c'era, adesso non c'è più? Quando sono venuto, perché poi prima ancora che la Corte decidesse di, comunque ha fatto benissimo ad annullare quel benefit per gli ex giudici, ma prima ancora ho ceduto la mia macchina con il mio autista al nuovo giudice costituzionale che entrava, e quindi ho smesso di utilizzare questo benefit. Ma questo è stato sacrosanto, far cessare questo benefit agli ex giudici è stato assolutamente sacrosanto. Per tutta la questione degli altri benefit, cioè, capisce che un italiano che in questo momento di crisi, soprattutto, presidente, legge tutte queste retribuzioni che lei definisce più che congrua, come dire, come reagisce un italiano che in questo momento di difficoltà vede... Ma di quali benefit vogliamo parlare? No? Ma sia della retribuzione che anche dei benefit, non so, durante il giudice, quando uno è giudice, per esempio la telefonia domestica, cioè la bolletta del telefono, insomma, di casa, ecco, per capire. Quello in effetti io non avevo usufruito, non sapevo neanche che ci fosse veramente, voglio dire, non ha una giustificazione reale, ecco, quella, infatti come stesso professor Perotti nota, non viene utilizzato da tutti, dice salvo rinuncia, infatti diciamo, io per esempio non ho mai usufruito di quella cosa. Che lei sappia, i giudici in genere rinuncia, beh però sa, penso la, di sì. La comunque, legge quello, consente di... Quello mi dicono non ha molto senso, ecco, non ha forse nessun senso, perché il giudice non deve stare molto al telefono. Insomma, è un privilegio che non capisce. E i parametri, non so, il fatto che costi il triplo rispetto alla Corte Costituzionale inglese. Ecco, no, attenzione, sì. Bisogna sempre essere precisi. Intanto, vabbè, il paragone l'ho fatto con la Corte USA, con la Corte Britannica. In realtà la Corte Costituzionale sembra assimilabile semmai alla Corte Costituzionale tedesca, la Corte Costituzionale spagnola, la Corte Costituzionale che ormai ci sono in tutti i paesi europei. Quindi sarebbe interessante, anzi io chiederei perché il professor Perotti facesse una indagine paragonando ai costi di organismi assimilabili. Mentre in Gran Bretagna non c'è una Corte Costituzionale, perché non c'è neanche una Costituzione scritta, c'è una Corte Suprema da poco tempo, negli USA c'è la Corte Suprema, ovviamente famosa, eccetera, con giudice a vita, quindi è tutto un altro sistema. Allora sarebbe interessante, io penso che ci siano degli squilibri a vantaggio nostro italiano, sì, ecco, sì. Penso che ci siano, però sarebbe interessante andare in Germania, Spagna, cioè, questo raffronto qui. Allora facciamo così, dopo la pubblicità ripartiamo a capire, professor Perotti, se davvero sono questi raffronti. Certo, ci sono anche le telefonate degli ascoltatori, 800 24 00 24, anche molti messaggi, gente molto arrabbiata, devo dire, perché queste cifre in questo momento di crisi fanno molta rabbia. E poi vorrei ripartire anche al professor Perotti da quella che è un'accusa che lei scrive nell'articolo sulla voce.info, in cui parla di tutti questi costi, a dire, con questi privilegi è chiaro che poi, soprattutto anche privilegi pensionistici, è chiaro che poi la Corte Costituzionale, che è quella che decide sulla costituzionalità delle leggi, ci mette un attimo, per esempio, a bocciare quelle norme come quella che ha voluto il governo Monti, che voleva tagliare un attimo col contributi una tantum alle pensioni. Cioè il rischio, si fa capire in questo articolo, che in una situazione di privilegio si cerca di mantenere privilegi per tutti, per evitare che poi i privilegi vengano tagliati anche a se stessi. Questa è un po' l'accusa. Dopo la pubblicità rientriamo. 24 mattino. Allora, alle 8:38 minuti stiamo parlando dei costi della Corte Costituzionale. Ricordiamo alcuni dei costi che il professor Roberto Perotti sulla voce.info ha snocciolato e ha messo nero su bianco: 460.000 euro lordi lo stipendio di un giudice della Corte Costituzionale, quando si va in pensione una pensione media di 200.000 euro, ma anche dei benefit che portano a costare per auto blu 750 euro al giorno. Poi vorrei sentire anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, devo dire presumibilmente, e molti, lo vedo dai messaggi che mi sono arrivati in diretta, anche molto molto arrabbiati di questi tempi, ovviamente queste cifre fanno arrabbiare. Mauro dalla provincia di Milano. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vorrei fare semplicemente qualche domanda al professor Onida. Sì. Vorrei sapere se si rende conto di quello che dice quando segnala semplicemente come più che congruo uno stipendio di 400.000 euro all'anno e una pensione di 200.000 euro all'anno. Vorrei sapere se si rende conto di quello che fa, quando invece di rispondere sui punti fa del semplice benaltrismo citando gli stipendi di manager peraltro privati. Poi vorrei chiedere che senso ha mettere lo stipendio di questi giudici in Costituzione. Nella no. Costituzione che mi raccontano tutte le sere alla televisione, peraltro sulla Repubblica. Beh, sa, questo almeno questo il professor Onida non l'ha deciso, però dice lei che senso ha. Si cambi questa cosa, certo, lei dice si modifichi questa cosa. C'è un ultimo punto, questi mega giudici che poi dicono come anticostituzionale interventi di pensioni, delle super pensioni che loro stessi prendono. Ecco, allora non anticipi però questo argomento, perché l'avevo detto io e poi il professor Perotti fa un'accusa precisa. Prima che risponda il professor Onida, Tiziano dalla provincia di Firenze. Tiziano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, dicevo alla gentile signorina, sì. Il problema è che c'è un'Italia spaccata in due tronconi. Sì. c'è l'Italia del mondo del privato, sia esso imprenditore, libero professionista, dipendente, che deve fare conti con una realtà sempre più difficile. È un mondo pubblico gestito dalla politica autoreferenziale che stabilisce compensi e privilegi che non sono possibili controllare da nessuno. Ma infatti il problema non è solo della Corte Costituzionale, abbiamo un Quirinale che costa 250.000 euro l'anno contro i 50.000 dell'Eliseo e i 150 di Buckingham Palace, abbiamo le regioni a statuto speciale, abbiamo il presidente della provincia di Bolzano che guadagna quanto Barack Obama, sì. Abbiamo il nostro ministro... non ce li snoccioli tutti, Tiziano, insomma lei per dire che cosa? Che c'è una casta che si autodetermina gli stipendi, diciamo così? Esatto, si appoggia l'un l'altro, stabilisce privilegi che nessuno va a toccare, sapendo benissimo che questi privilegi sono poi distribuiti a tutti quanti. Perfetto. Allora, se Tiziano, diciamo, no, si fermi lì, è molto chiara, insomma, la sua denuncia, il suo giaccusa. Allora, professor Perotti, prima delle risposte di Onida, l'ascoltatore aveva detto: beh, ma si rende conto cosa vuol dire più che congruo? Tra poco risponde Onida. Però Perotti, lei ha detto: beh, poi non stupiamoci se la Corte Costituzionale boccia in Italia le superpensioni, le pensioni d'oro previste dal governo Monti, cioè l'idea che, come dire, per evitare che poi tocchi anche a loro, professore? Diciamo, il sospetto non è completamente infondato, ma non voglio fare della dietrologia. Noto solo che il ricorso che ha determinato questa sentenza della Corte Costituzionale è stato fatto ovviamente da un magistrato, perché questa proposta del governo Monti avrebbe toccato in gran parte gli stipendi dei magistrati, che sono i più alti del settore pubblico. Sì, ricordo che lo ospitammo anche, quel magistrato, lo ospitai in questa trasmissione, disse: ma insomma, i diritti acquisiti è una cosa anticostituzionale, ecco. No, non lo faccio per una difesa di categoria, ma perché le cose anticostituzionali vanno bocciate. Ecco, però se posso permettermi, il problema è che quella sentenza dimostra l'enorme ignoranza dell'economia e degli aspetti economici da parte della Corte Costituzionale, perché era basata sull'articolo 3 che diceva che la contribuzione deve essere, che tutti sono uguali davanti alla legge, e il 53 che la contribuzione deve essere progressiva. Era chiaramente una progressiva, perché scaglionava, tassava di più le... Ma lei accusa anche di ignorare ignorare la Costituzione, ecco, i giudici della Corte Costituzionale. No, esatto, perché allora dobbiamo andare a vedere le imposte, un'accisa sulla benzina, chiaramente incostituzionale da questo punto di vista, perché pesa molto di più sullo stipendio, sul reddito di una persona povera che di una persona ricca. La Costituzione dice che la tassa nel loro complesso devono essere progressive, ma non la singola tassa. Inoltre, ci sono chiaramente delle situazioni che privilegiano alcuni settori che altri. L'aumento, se i dipendenti delle poste riescono a ottenere un aumento del loro stipendio attraverso un contratto nazionale, questo è incostituzionale secondo la Corte Costituzionale, perché si riferisce solo a un settore, a un particolare settore della cittadinanza italiana e non ad altro. E invece non è così, però per paradosso. È incostituzionale secondo questa sentenza. Allora, professor Onida, ci sono alcune cose a cui rispondere. La prima, il paragone, l'ascoltatore dice: ma scusi, lei ha definito più che congruo la pensione, cioè si rende conto che per un italiano sentire più che congruo 200.000 euro, un qualsiasi italiano direbbe è uno scandalo incredibile, non più che congruo. Rispondiamo partitamente, però mi lasci parlare, perché altrimenti dica, eccoci qua. Intanto, primo, capisco perfettamente l'orientamento, l'atteggiamento degli ascoltatori, perché hanno ragione quando mostrano che in Italia ci sono delle forti disuguaglianze, che ci sono delle... Sulla contrapposizione privato-pubblico è anche vero che c'è una contrapposizione, ma non è sempre lo stesso tipo, non è sempre a vantaggio del pubblico, quindi là bisognerebbe andare molto più a fondo, perché questa contrapposizione nasce dal fatto che, per tante ragioni giustificate, si accusa la politica, e quindi la politica, tutto il settore pubblico. In realtà gli scandali, le disuguaglianze, gli arbitri, ci sono in molti casi. Sì, però un manager privato fa un contratto, un manager privato, quindi voglio dire, sarà scandaloso. Però ma che vuol dire fa un contratto? Ah, scusi, anche un dipendente pubblico oggi fa un contratto, nel senso che accetta di quella certa retribuzione prevista dalla legge, nel caso del pubblico è previsto dalla legge, nel caso del privato non è previsto dalla legge, ma è ugualmente, diciamo, se uno vuole andare a vedere se ci sono disuguaglianze ingiustificate, fatto che oggi ci siano rapporti che sono da 1 a 100 o anche di più tra la retribuzione minima del dipendente di una certa società e il manager. Questa è una cosa. Però è un'ingiustizia sociale, se lei vuole può definire. Esatto, un'ingiustizia sociale. Allora io dico va benissimo, cioè non è che non si debba battere su questo chiodo, io penso che le ingiustizie sociali vanno combattute. Per quanto riguarda il pubblico, ci sono sicuramente molte cose che non vanno. Quindi è giusto criticare, andare a indagare, però ecco l'atteggiamento di chi vede a priori nel pubblico il male, nel privato il bene, mi sembra un atteggiamento infondato. Questo, e invece l'accusa ecco, di avere bocciato le pensioni d'oro, il taglio delle pensioni d'oro, perché no, poi dopo toccava anche a voi. Prima di dire questo, il più che congruo voleva dire più che congruo, anzi abbondantemente congruo, non è che una retribuzione appena sufficiente. Sa, gli italiani magari si sarebbero aspettati tipo mi rendo conto, cioè è una cosa scandalosa, ma ne beneficio perché la legge non rubo nulla, insomma la legge mi consente di beneficiarne. Bisogna tenere presente l'intero status, per esempio il giudice costituzionale ha uno status di totale incompatibilità, nel senso che non può fare niente altro, non può percepire nessun'altra retribuzione, compenso, ma neanche attività professionali, neanche attività private, capisce? È incompatibile con qualsiasi altra attività, è anche incompatibile con le attività direttamente politiche. Sì. Il giudice costituzionale è collocato in una situazione che si auspica essere di totale indipendenza, e quindi non è giustificato che si riconosca una retribuzione che allontani ogni tentazione, per così dire, di corruzione, eccetera. Allora, professor Onida, le do la parola subito dopo, devo dare il traffico, purtroppo queste scadenze che sono assolutamente imprescindibili. Dopo il traffico le do subito la parola per parlare invece dell'accusa velata, ma neanche tanto velata, di Perotti a dire, insomma, il sospetto senza dietrologie che si taglino le pensioni d'oro, giudicata incostituzionale la legge, perché sennò poi dopo i primi ad avere le pensioni d'oro siete voi. Tra un attimo. Eccoci l'ultima parte di 24 mattino. Allora, professor Onida, l'accusa come replica? Rispondo subito. Sì. Facciamo una premessa. Questa sentenza della Corte Costituzionale sulle cosiddette pensioni d'oro io non la condivido, diciamo. Quindi lei l'avrebbe. Vabbè. Non la condivido. Però devo precisare, perché il professor Perotti ha parlato di principio di progressività delle imposte. Non è quello il parametro che la Corte ha usato, cioè non ha detto che è incostituzionale perché non è progressiva. Assolutamente. Ha detto che siccome questo contributo speciale copriva solo le pensioni private e pubbliche superiori a una certa quota, 90.000, 150.000 euro, c'è una disuguaglianza irragionevole, non giustificata, rispetto alla contribuzione tributaria, all'imposizione tributaria che colpisce le retribuzioni o i redditi di lavoro autonomo o dipendente dello stesso livello, cioè un pensionato che percepiva 150.000 euro veniva colpito, un lavoratore autonomo dipendente che percepisse 150.000 non veniva colpito. Quindi, questo è l'accusa che ha fatto la Corte. Questo è il motivo per cui è stata bocciata, giudicata anticostituzionale. Professor Perotti, qui su questo non faremo un passo in avanti. Permettere... Ripeto, secondo questo principio un aumento della pensione sarebbe incostituzionale, perché è un aumento del reddito solo di una certa parte dei cittadini pensionati e non degli altri lavoratori. Quindi sua accusa è che di fronte a un ricorso tutto sarebbe incostituzionale, se sono si vuole tutti applicare. Argomenti, è un argomento da un punto di vista economico che non sta in piedi. Volevo fare due considerazioni su quello che ha detto il professor Onida. Il primo, quando dice che anche i manager privati prendono troppo, sono d'accordo, però si dimentica che i manager privati sono degli azionisti che se non sono contenti possono mandare via. Non sempre succede, gli Gresti ne sono un esempio, dove peraltro anche lì la magistratura li ha lasciati fare per anni e anni senza intervenire. La seconda osservazione che aveva fatto il professor Onida è che bisogna stare attenti a non demonizzare il pubblico, il privato è bello e il pubblico è cattivo. Non non era certamente questa la mia intenzione, però se ogni volta che si critica il settore pubblico, i privilegi del settore pubblico, si tira fuori la storia, voi siete degli ultraliberisti che volete privatizzare tutto, non sta bene. Allora, no, ma fatevi sentire anche Domenico dalla provincia di Pavia. Domenico, buongiorno. Buongiorno a lei, Emile, a tutti gli ospiti. Buongiorno. Senta, io volevo dire questo. Stiamo parlando di incostituzionalità. Benissimo. Allora, i giudici hanno detto che è incostituzionale ridurre le loro pensioni. Allora, se parliamo di incostituzionalità, c'è anche un altro fattore. Il pagamento dell'IVA di fine anno, l'anticipo dell'IVA, è stato dichiarato dalla comunità, anche europea, che è anticostituzionale. Faccia un ricorso. Italiano, scusi, sì. E lo Stato italiano paga ogni anno una multa perché questo non deve avvenire, nonostante tutto paghiamo la multa sempre con i soldi nostri, però lo Stato incassa. No, ma guardi Domenico, stavo dicendo, preso dall'impeto, faccia ricorso alla Corte Costituzionale, dimenticando basi del diritto, che un privato cittadino non può fare ricorso alla Corte Costituzionale, ma comunque no, però Domenico ci porta un po' fuori dalla questione, che in realtà sono i costi della Corte Costituzionale. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive anche: per gli esodati, caro professor Onida, non è valso il principio sempre il principio dell'idea di vale solo per lor signori, cioè gli esodati che nottetempo per una riforma si sono trovati esodati, per l'appunto. Sono uno scandalo. Sono uno scandalo, dice. Quello sì, quello è un vero scandalo. Quello è un vero scandalo. Senta, tra l'altro, professore, io sono la devo ringraziare perché lei è qui. Insomma, devo dire, abbiamo fatto anche tante ricerche, tante telefonate per parlare con ex presidente della Corte Costituzionale. Lei è qui anche la prima volta che riappare a Radio 24 dopo la famosa nota vicenda. Ho un conto aperto con Radio 24, non ancora chiuso, perché in quella occasione mi hanno rubato una telefonata. Il famoso scherzo telefonico. Scherzi sono una cosa ottima, bellissima, ma i furti di telefonate non sono una cosa buona. Ma un conto aperto in che senso? Un conto aperto nel senso che penso che ancora che si debba ritornarci sopra a questo tipo di attività, che ho visto è stata svolta anche più recentemente nei confronti di altre persone, per mostrarne la illiceità. Illiceità, va bene, però non ha un conto aperto, nel senso che ho scritto una raccomandata a Radio 24, sì. E non ha ancora avuto risposta scritta. Ah, va bene. Però almeno torna qui a Radio 24. Ma certo che torno, perché non dovrei. No, ma è chiaro. Però insomma, pensavamo che fosse più arrabbiato con la radio. Sono preoccupato che si osservino le regole della legalità in tutto, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Va bene, e intanto staremo a vedere. Professor Perotti, io so che lei si concentrerà, ci ha già preannunciato su adesso i costi delle regioni. Ha visto l'ultimo in Abruzzo? In Abruzzo l'assessore arrestato che pagava champagne con le spese della regione, perché ha detto in un'intercettazione, ha detto: io sono fatto così, a me piace essere dispendioso e mi piace così. Sì, no, io mi stupisco che la gente si stupisca che succedano queste cose, perché è ovvio che col sistema attuale ne succederanno ancora di più. Ne succederanno e ne vedremo delle belle o delle brutte. Io intanto ringrazio Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, così come Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi, è anche editorialista del Sole 24 Ore e ha scritto questo articolo per lavoce.info. Ci fermiamo qui, ringraziamenti a tutti da Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Anita Panizza in redazione, anche Elisabetta Fusconi, e il nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domattina alle 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside, perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. 24 mattino.